rimane ma vorrei partì stasera lontano non c'è resisto più dice che sei rimasto solo mare che desde prima chi lo mare blu monasterio Santa Chiara tengo coro scuro scuro ma perché ogni sera pensa a Napoli com'era e pensa a Napoli com'è vunda nella Capemonte chi sto cuore mi si scanda quando sento di da gente che si è fatto malamente sto paese ma perché no non è vero no non c'è credo e muoro questa smania torna a Napoli ma caccia va me fa paura un gettura la la la la la la la Mario ma perché ogni sera penso a Napoli com'era e penso a Napoli com'era.